Garam Masala. Garan Masala con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Garan Masala, il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Good news. Garan Masala. Il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Funk soul, afrodisco classica, pre-edit house e deep house. Con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Garan Masala.